Inno a Demetra di Antonella Barina, Lobaris Neinè. Presentazione. Una delle più imperdonabili e crudeli omissioni perpetrate dalla dittatura patriarcale ai danni della nativa visione matrifocale neolitica dell'antica Europa è stata quella che riguarda la figura dell'anziana. A cominciare da Ecate, la nonna della trinità femminile, rappresentata da Ecate, Demetra e Persefone, una matrilinea che parte appunto dalla nonna e arriva alla nipote, la figura dell'anziana è stata corrotta e trasformata in dea della guerra o della magia, ma sempre con connotazione negativa, fino a scomparire del tutto nelle religioni androcentriche che hanno unito in una le due figure della fanciulla e della madre, ossia le uniche due funzioni femminili utili al patriarcato ai fini del piacere e della riproduzione. Lobaris Neinè, al secolo Antonella Barina, poeta, drammaturga e editrice impegnata nel recupero della tradizione matrifocale dalle origini, ha recuperato nella sua riscrittura dell'inno a Demetra proprio la figura della nonna Ecate e per la prima volta nella storia della letteratura ha ricostituito l'originaria trinità femminile. L'inno a Demetra è il primo racconto noto della letteratura occidentale che parli di sequestro e violenza su una giovane donna, Persefone, dea figlia di Dea, rappresentazione della potenza generativa della natura. Viene rapita e violentata dallo zio Ade, dio dell'oltretomba e fratello di Zeus, re dell'Olimpo patriarcalizzato, il quale, pur se padre della giovane, dà il suo consenso allo stupro. Madre di Persefone è Demetra, la madre terra. L'atto di violenza, consumato in ambito strettamente parentale, spezza narrativamente l'età dell'oro, che altro non è se non l'età contrassegnata da una gestione materna simbiotica con la terra. Un'età dell'oro rappresentata nell'inno a Demetra dalla magnificenza dei fiori e dei giochi delle giovani al momento del rapimento. Antonella Barina, Lobaris Neinè, ha riscritto l'inno a Demetra restando il più fedele possibile all'originale, ma cercando di restituire il senso genealogico femminile che lo caratterizzava in origine. Catalogato come pseudomerico, l'inno è stato variamente rimaneggiato nel tempo, soprattutto nella parte finale. Nella sua riscrittura l'inno presenta caratteristiche eccezionali. In primo luogo è straordinariamente libero da rivalità tra i personaggi femminili. Le protagoniste sono solidali tra loro e alla fine si reincontrano ricostituendo la sacra trinità iniziale. Secondo la visione dell'autrice, molti indizi fanno configurare l'inno a Demetra come sopravvivenza di un antico rito di passaggio femminile caratterizzato dal dono del melograno, simbolo di potenzialità creativa e di rinascita, dalla madre alla figlia che ha raggiunto l'età per riceverlo. Un sereno percorso di crescita della giovane con il consenso della madre e la presenza delle anziane. Nell'inno Ecate, la luna, compare sia all'inizio, nella funzione di aiutante di una Demetra angosciata per il rapimento della figlia Persefone, che alla fine, quando la figlia torna alla madre. Presente Ecate, i tre aspetti del femminile si reintegrano nel reciproco triplice incontro finale. Viceversa, in ambito patriarcale, il rito di passaggio viene trasformato in una violenta iniziazione sessuale gestita dal maschile. L'inno patriarcalizzato ribalta nel suo opposto anche il simbolo del melograno, poiché in questa versione patriarcale i semi mangiati da Persefone sanciranno, per intervento e tranello maschile, il tempo della separazione dalla madre Demetra. L'inno a Demetra racchiude in sé anche la relazione forte tra due donne legate dal medesimo sangue. Quest'inno insegna, inoltre, che la madre terra, nucleo semantico del femminile e somma rappresentazione della femminilità, se offesa nelle sue manifestazioni più vitali, smette di dar frutto. Drammatiche e precise sono le pur brevi descrizioni che l'inno a Demetra dà dell'alterazione e dell'equilibrio dell'ecosistema, quando vengono turbate le leggi insindacabili che regolano la produzione e la riproduzione degli esseri, vegetali e animali. Il dolore di Demetra, la madre terra, è universale e la sua potenza terribile. Di questo ci parlano gli antichi saperi. A proposito della violenza commessa su una giovane donna, così grave da mettere in predicato la sussistenza di tutto il genere umano. Ricercatrice scalza, si definisce Antonella Barina, avendo per oltre 40 anni in piena libertà e autonomia, e sempre a sue spese, viaggiato e studiato il divino femminile. In questa versione riscritta, gli epiteti fastosi dedicati al padre fedifrago Zeus, della versione pseudomerica, sono contestualizzati in modo da farne risaltare l'ironia. Estranea al testo originario è la richiesta di perdono da parte di Ade a Persefone prima del ritorno di lei alla luce, necessaria per rendere credibile nell'oggi il ritorno periodico della giovane dea nel cuore della terra, non più visto come il regno degli inferi. Il racconto, infine, si conclude dove Demetra e Persefone si ritrovano e dove la genealogia femminile si riconosce e si ricostituisce nella benedizione dell'antenata Ecate. L'inno va riscoperto e possibilmente riletto per approfondimento nelle sue diverse versioni, in quanto canto ecologico alla libertà femminile, alla forza delle donne e alla restaurata relazione con la propria genealogia, in accordo, secondo l'autrice, con il lavoro sulle antenate svolto in questi anni da Devana, figlia di Liliana, la sottoscritta, e confluito nella Scuola delle Donne, da me creata e diretta, e alla quale l'autrice consegna questo inno a Demetra per una diffusione nei canali della libera ricerca. Nell'estate del 2017 questa trascrizione è stata pubblicata sulle pagine del Paese delle Donne online ed è dedicata alla madre e alla figlia dell'autrice, da Antonella, figlia di Vita, madre di Mita. Da Devana, buon ascolto. Dei mondi che gli umani sono soliti narrare, vi è il mito in cui Ecate, Demetra e Persefone erano tra loro benigne e solidali. Questo era quando le comunità umane erano gestite dalle belle madri. A quei tempi il melograno era il dono che madre e figlia si scambiavano al passaggio d'età, quando una tramonta e l'altra sorge come luna piena. Allora i parti erano assistiti dalle anziane, le sorgenti e le pietre erano sacre. Ma quando le leggi dei padri presero il sopravvento, venne tempo di guerra e sangue infecondo, scorse nelle piane a intristire fiumi e monti. Nessuno scampava. Ogni aurora era funestata da nuove battaglie e comandava chi, in quelle battaglie, si era distinto per crudeltà e sete di dominio. Le giovani furono alla mercé dei maggiorenti. In quel tempo intermedio le madri nulla potevano. Ma Demetra lottò con l'aiuto di Ecate e Luna per liberare la propria figlia Persefone, che Ade, dio degli inferi, aveva rapito in accordo con il fratello Zeus, re dell'Olimpo, oltre che inqualificabile padre della giovane. Giove e Ade, i patricidi figli di Crono, agivano la legge maschia del potere che nella distruzione rinnova se stesso. Il crimine attraverso cui questa legge si manifesta viene coperto e si aggiusta per la ragion di Stato che complice lo occulta. Benedetti quelli che intendono il linguaggio dei fiori e non mettono le giovani alla mercé di gerarchie che ignorano la forza dell'amore. Benedette le non sottomesse che lottano per se stesse, come per le altre, e alla lunga vincono ogni battaglia intrapresa. Io canto la dea dai capelli magnifici, Demetra la Grande. Canto di lei e di sua figlia dalle belle gambe rapita da Ade. Cosa che l'oscuro, tonante, onnipotente Zeus permise di nascosto alla dea dei frutti e alla sua ascia fulgente, mentre Persefone Core, la fanciulla, giocava lieta e con le sue compagne coglieva nel prato rose in boccio e fiori di croco e viole profumate e iridi e giacinti e il narciso, il quale per comando di Zeus tradì la giovane dagli occhi gentili, che stava ammirando quel frutto della terra a tutti donato, un prodigio di fiore che incanta genti e dee, mortali e immortali. Dalla radice del fiore crescevano 100 corolle spandendo un profumo irresistibile che arrivava al cielo e faceva gioire la terra e le onde salate del mare. Incantata, Persefone tese le mani per cogliere quel nuovo dono. Ma la terra si aprì in una grande voragine nella pianura di Nissa, nel cuore della Sicilia antica, nel centro del mondo di allora, e cavalcando cavalli immortali ne uscì colui che accoglie i morti, il re degli inferi dai molti nomi, Ade, re dell'Ade, colui il cui nome non si pronuncia per timore di esserne catturati, il figlio di Crono. Ah, l'avesse il padre divorato allora, quando temeva di essere spodestato. La rapì, traendola su un cocchio d'oro, e la portò via, anche se lei si dibatteva e piangeva, gridando forte, e chiamava in soccorso Zeus, suo padre, che dall'alto dei cieli l'aveva tradita, l'ottimo e sommo Zeus, fratello di Ade. Nessuno tra i mortali e gli immortali sentì quelle grida, nemmeno i fastosi ulivi dai rami colmi di frutti, né le giovani dee che erano con lei. Solo la potente Ecate, la levatrice, la più antica tra tutti gli dei, dal suo antro l'aveva sentita. La limpida Ecate, coperta di bianchi veli, solo Ecate e il sole là in alto, il sole figlio di Perione, il titano, solo loro udirono Persefone chiamare invano Zeus, suo padre, che se ne stava seduto, distante e tranquillo nel proprio tempio, a ricevere le offerte con cui i mortali per timore lo omaggiano. Così Persefone fu rapita su cavalli immortali dal senza nome, che ha molti nomi, colui che accoglie e assoggetta, Ade, figlio di Crono. Rapita proprio per volere del grande Zeus, che del glorificato Ade è fratello. Eppur nell'angoscia Persefone aveva in cuor suo ancora la speranza di rivedere la cara madre e la stirpe eterna degli altri dei. Sperò finché ancora scorgeva la terra e le stelle del cielo e il mare dai gorghi violenti e la luce del sole. Poi, quando fu sottoterra, alzò un ultimo acutissimo grido. La sua voce immortale riecheggiò tra le vette dei monti e gli abissi marini e così fu udita dalla generosa Demetra, sua madre. Un'angoscia furiosa invase allora il cuore di Persefone. Con le sue stesse mani la fanciulla si strappò i veli virginali e si coprì allora le belle spalle con un manto funebre. Con ali di uccello Core cercò di trovare una via di fuga, ma nessuno tra gli dei e i mortali dette notizia del rapimento e dagli uccelli non le giunse alcun augurio di salvezza. Da quel momento, per 9 giorni, la sovrana madre Demetra percorse la terra cercandola con in pugno le sue fiaccole infuocate. La signora del grano e dei papaveri, per cercare la figlia, non una volta si nutrì di ambrosia, né si ristorò di nettare e neppure si immerse in lavacri. Quando Demetra vide sorgere la decima nitida aurora, Ecate le venne incontro, reggendo anche lei una grande torcia, cercando il coraggio e la voce per dirle quanto era avvenuto. Demetra, tu che sei dono d'estate e sovrana ricca di doni, chi tra gli dei dell'Olimpo, chi tra i numi, chi tra i mortali ha rapito Persefone e tanto tristemente ha colpito il tuo cuore? Io, Ecate, ho sentito Persefone gridare, ma non ho visto chi sia stata a rapirla. Posso solo darti conferma che è vero. Così, disse Ecate, e Demetra non proferì parola, ma subito, stringendo le fiaccole nel pugno, contratto si pose al fianco di Ecate, e insieme giunsero fino al sole, che illumina uomini e dei. Ritta davanti al suo cocchio, Demetra la splendida chiese al sole: Sole, serbami il rispetto dovuto a una dea, se mai prima d'ora mi hai amato profondamente per le mie parole o gli atti del mio animo, il dolce germoglio che ho partorito, la mia luminosa figlia. Sì, nell'aria ho udito chiaramente il suo grido di angoscia, come stesse subendo violenza, ma non l'ho visto con i miei occhi. Tu, sole, che dall'alto posi splendido i tuoi raggi su mare e terra. Dimmi, sincero, se mai hai visto la mia creatura, dimmi chi con la violenza e contro la sua volontà l'ha rapita ed è fuggito, defraudandomi di lei. Chi è stato tra gli dèi o i mortali? Disse così. E il figlio di Perione le rispose sinceramente: Demetra, sovrana, madre e figlia di te stessa, ti dirò ogni cosa. A te porto il rispetto che si deve a una dea, e di te ora ho pietà. Sei in angoscia per la tua figliola dalle snelle caviglie, e nessuno tra gli immortali, se non suo padre Zeus, padrone delle nubi, ne ha colpa. Lui è stato ad offrirla ad Ade, al suo regno, per farla sua sposa. Quel suo fratello di sangue l'ha trascinata via sul proprio carro, nel buio cupo delle nebbie, l'ha presa. Anche se lei urlava forte. Dea, frena l'amarissimo pianto, è inutile l'immenso rancore che ti consuma. Tra tutti gli dèi, a quell'Ade che molti assoggetta, tu stessa sei legata da vincoli di sangue e ti ha congiunto. Pensaci, perché rischiare? Presto Ade potrebbe non essere per te un genero indegno. Ade gode di grandi onori da quando all'inizio tutto fu diviso in tre parti. A lui è toccato in sorte il mondo dei morti, su cui ora regna sovrano. Ciò detto, il sole incitò i suoi cavalli, e questi, come uccelli, dalle ali tese, rispondendo al suo ordine svelti, ne trassero via il carro al galoppo. Un dolore ancora più atroce, un morso di cane scese nel cuore di Demetra, odiando Zeus, il Cronide, il sovrano delle nuvole nere. La dea si allontanò dal concilio degli dèi, rinnegò l'alto Olimpo e andò errando di città in città, attraversando i continenti, da allora nascondendo la propria bellezza alle genti. Chi la incontrava non vedeva più la stupenda dea che era stata. Giunse così ad Eleusi, nell'Attica d'Occidente, nei pressi della casa di Celeo, il quale a quei tempi era il generoso sovrano della città che odora di incensi. Continuando a macerarsi nel cuore, Demetra fece sosta dove la gente attingeva l'acqua che sgorgava da una sorgente sopra un grande albero di ulivo, al pozzo Partenio, consacrato dai canti delle vergini, e lì si sedette. Aveva assunto sembianze di donna avanti negli anni, ben lontana dai doni amorosi dell'inghirlandata dea, l'amica Afrodite. Così i principi che diventeranno fonte di legge a volte si rivelano a chi è giovane, come da balie che li dispensano in echi di memoria. Lì la incontrarono le figlie di Celeo, re di Eleusi, venute alla fonte per raccogliere l'acqua in brocche di bronzo da portare alle case. Quattro giovani belle come fiori appena sbocciati, belle come dee, Callidice, Ecclesidice, Demo l'amata e Calliroe, la maggiore di tutte. Non riconobbero Demetra. Non è facile ai mortali riconoscere il divino. L'avvicinarono pronunciando parole che volavano nell'aria come farfalle. Vecchia, chi e di dove sei? Di quale gente? Chi sono le antenate tue? Perché resti lontana dalla città e non ti avvicini alle case? Da noi le donne della tua età e di altre età abitano assieme in stanze ospitali. Saresti accolta volentieri tra di loro, con parole e gesti di amicizia. La dea sovrana parlò, rispondendo alle figlie di Celeo: Io vi saluto, chiunque voi siate, figlie che vivete tra le donne. A voi racconterò quello che non è sconveniente narrare, dato che me lo chiedete. Il nome che mi dette mia madre è Ga. Vengo da Creta. Sono stata portata qui via mare, contro il mio volere, costretta a forza da predoni giunti in nave a Torico d'Attica. Come un gregge fecero scendere le donne che tenevano prigioniere affinché quelle preparassero un pranzo vicino agli ormeggi di poppa. Per quanto invitante, io non presi parte al banchetto, ma balzai a terra e fuggii da quei superbi padroni perché non volevo che avessero da guadagnare vendendomi schiava senza avermi comprata. Vagando sono arrivata fin qui, ma di questa terra non so nulla, né che terra sia, né chi ci vive. Ora, augurandovi che gli dèi abbiano in serbo per voi un futuro di spose soddisfatte e madri di prole riconoscente, vi supplico di dirmi da amiche se c'è una casa che mi possa accogliere. Sono disposta a far lavori adatti a un'anziana, come cullare una creatura o farle da balia, custodire la casa, preparare il letto alle padrone o addestrare al lavoro le giovani donne. Così disse la dea, che aveva scelto di presentarsi loro con il nome più antico della terra, Ga. Callidice, la vergine più bella tra tutte, rispose prontamente: Nonna cara, pur con angoscia, tutte e tutti dobbiamo sottostare al volere degli dèi, che sono molto più forti di qualunque umano, ma io ti dirò con chiarezza i nomi di tutti coloro che governano la città, quelle e quelli che tra il popolo spiccano, perché con i loro consigli profondi e con le loro giuste sentenze custodiscono le nostre tradizioni. Vi è Delfina, alla quale si rivolgono i saggi quando devono decidere. Vi sono Aracne, che insegna a tutte la tessitura. Amaltea, che conosce i segreti del latte. Dionisia, che governa i tempi dell'uva. E tra tutte noi, a portare il riso con le sue parole e i suoi motti, vi è la saggia Baubo. Saggio e ingegnoso è poi Tritolemo, e colui Dioclo e Polisseno, impeccabile è Eumolpo. Ci sono Dolico e il nostro nobile padre, Celeo. Le donne lavorano in casa e la custodiscono, e nessuna di loro, quando ti vedrà, disprezzerà il tuo aspetto o ti caccerà via. Anzi, ti riceveranno perché assomigli a una dea, davvero. Resta qui, dunque, se vuoi. Spiegheremo ogni cosa con cura a nostra madre Metanira, e lei ti inviterà nella nostra casa, senza cercarne un'altra. In quel confortevole palazzo, nostra madre sta crescendo il suo ultimo nato, da lei tanto sperato e atteso con gioia. Se saprai assistere questo suo figlio prediletto e farlo crescere bene, la ricompensa che ne riceverai ti renderà invidiabile da ogni donna. Così disse Callidice, e la dea fece un segno di assenso con il capo. Allora le giovani felici riempirono i vasi di bronzo e li portarono a casa, dove subito spiegarono ogni cosa alla loro madre Metanira, la quale ordinò che corressero a chiamare la nuova ospite, cosa che le giovani fecero subito, correndo come cerbiatte nella stagione di primavera, quando sono sazie e felici per avere ben pascolato. Correndo, tenevano le vesti sollevate sul sentiero accidentato e i capelli ondeggiavano sulle loro spalle come petali di fiore di croco nei prati mossi dal vento. Trovarono Demetra dove l'avevano lasciata e condussero verso casa la dea con il capo velato, avvolta nel suo fluttuante e nero peplo. Giunte alle proprietà di Celeo, fedele di Zeus, traversarono il portico. Metanira era seduta vicino al pilastro centrale della dimora, con in braccio il suo nuovo piccolo fiore. Attorniata dalle giovani, la dea si presentò alta sulla soglia, toccando la porta con il capo, riempiendola di splendore. In Metanira quella visione suscitò rispetto, stupore e uno strano terrore, tanto che si alzò dal proprio trono e invitò la dea a sedersi al suo posto. Demetra, la donatrice di messi, la ricca di doni che dona ricchezza, non accettò però di sedersi su quel trono fulgido, ma rimase in silenzio, tenendo i begli occhi abbassati finché Baubo, colei che dona il sorriso, non le porse un sedile sul quale aveva steso una candida pelle. La dea si sedette, continuando a celarsi con il velo serrato nella mano. E lì rimase, continuando a tormentarsi, muta, ferma, sempre senza parlare, senza sorridere, senza accettare cibi o bevande, pensando alla figlia perduta. E questo finché la saggia Baubo non le si rivolse con motteggi e battute, forzandola prima a sorridere e poi costringendola al riso, ridandole così quella letizia d'animo che la dea aveva dimenticato. Per questo, da allora e per sempre, Baubo è cara a Demetra, che la tiene amatissima nel cuore. Allora Metanira le offrì un calice di vino mielato, ma la dea rifiutò perché, disse, non le era consentito bere vino rosso. Chiese invece da bere dell'acqua mescolata a farina con l'aggiunta di diverse erbe, che alcuni dicono essere malva, altri orzo, altri menta e altri erbe dei sogni. Metanira mescé quello che la dea aveva richiesto e glielo porse. Così, accettandolo, Ga, la terra, la sovrana Demetra, sancì il proprio rito. Fra tutte, poi, parlò Metanira, la madre dalla bella vita sottile. Salute a te, donna. Non credo che tu sia nata da gente qualunque, perché i tuoi occhi irradiano quel rispetto e quella nobile grazia che sono proprie delle stirpi regali. Pure, tutti e tutte dobbiamo, pur se con angoscia, sottostare ai capricci degli dèi. Questo è il giogo che abbiamo sul collo. Ma fra di noi tu avrai tutto quello che ho anch'io. Tu alleverai il bambino che ho avuto quando avevo smesso di sperare. È venuto e lo amo sopra ogni cosa. Se saprai allevarlo e farlo crescere nel modo migliore, la mia ricompensa sarà tale che ogni donna ti invidierà. E Demetra, la dea delle ghirlande, rispose a Metanira: Donna, salute anche a te, che gli dèi ti siano propizi. Seguirò al meglio tuo figlio, come mi chiedi, lo alleverò e nessun maleficio o erba maligna potrà nuocergli, perché conosco una cura più forte di ogni veleno che a qualsiasi maleficio pone valida difesa. Detto ciò, accolse il bimbo in braccio appoggiandolo al suo seno profumato e la madre ne fu lieta. Così Demetra cominciò a educare nel palazzo il bellissimo bimbo di nome Demofonte, partorito da Metanira la Bella, figlio di Celeo. E la creatura crebbe senza bisogno di mangiar pane o bere latte, perché Demetra, Ga, lo ungeva di ambrosia come fosse un figlio divino e respirava su di lui stringendolo al petto. In più, di nascosto alla madre e al padre, di notte lo esponeva alla calda forza purificatrice del fuoco sopra cui lo teneva come fosse un tizzone. Ai genitori parve un prodigio il crescere precoce del figlio che aveva l'aspetto di un dio. Demetra l'avrebbe reso immortale, immune alla vecchiaia, se per disgrazia, non trovandoli a letto, una notte Metanira non l'avesse spiata. Temendo per la vita del figlio, gettò un grido e si batté i fianchi, disperata, e piangendo, dissennatamente turbata nel profondo, disse di getto: Demofonte, figlio mio, che fa questa straniera? Ti immerge in un gran fuoco e mi getta nella disperazione e nella pena. Disse così, lamentandosi, e quelle parole, prive di fede, furono udite dalla dea. Grande sorse in Demetra la collera contro colei che aveva interrotto la cura. Con le sue braccia immortali spinse lontano da sé il piccolo nato oltre ogni speranza e, adirata, ne rimproverò con rabbia la madre. Umani, privi di senno, incapaci di prevedere la sorte che vi attende nel bene e nel male. Tu, incapace di fiducia, tu nei miei confronti hai sbagliato. Mi siano testimoni le acque dell'infero Stige su cui noi dei giuriamo. Io, tuo figlio, l'avrei reso immortale, immune per sempre da vecchiaia, e per tutti i suoi giorni gli avrei dato infiniti privilegi, ma ora, ora non potrà più sfuggire agli artigli delle Chere, i potenti spiriti della morte. Demofonte avrà tuttavia per sempre l'onore infinito di aver riposato sulle mie ginocchia e tra le mie braccia. A lui, sentenziò, dedicherete le feste e i giochi nei quali i giovani di Eleusi si affronteranno ogni anno. Io sono la luminosa e onorata Demetra, quella che dispensa gioia e supremo conforto a mortali e immortali. Concedo al tuo popolo di erigere un grande sacrario e un'ara a me dedicati vicino alla rocca e alle mura di Eleusi, sulla collina, sopra la fonte Callicora. Sarò io a insegnarvi, io in persona, i miei riti, in modo che in futuro li celebriate degnamente per continuare a placare la mia ira e salvarvi. Alla fine di questo pronunciamento, la dea mutò di statura e figura, svestendosi della forma di vecchia e manifestando la propria bellezza. Intorno si diffuse la fragranza delle essenze di mille e mille fiori e il suo corpo immortale si illuminò di luce radiosa. Biondi capelli le si allungarono folti fino alle braccia e, come colpita da un fulmine, la casa si riempì di quella scintillante, inaspettata visione di luce. Demetra uscì dalle sale del palazzo. Intanto la povera Metanira sentiva venirle meno la forza alle ginocchia. Rimase a lungo impietrita, dimenticando perfino di sollevare da terra il suo bimbo prediletto. Furono le sue figlie, le sorelle, svegliate dai pianti del piccolo, ad accorrere, ed una lo prese tra le braccia, stringendolo al seno. L'altra ravvivò il fuoco, la terza accompagnò la madre a letto, vivificandolo di essenze. Affollandosi intorno con ogni cura, lavarono il bimbo scalciante, ma il piccolo non smetteva di piangere perché non c'era paragone tra loro e quella che egli era stata fino a poco prima, balia e nutrice. Per tutta la notte le giovani cercarono di placare la dea gloriosa che la loro madre non aveva saputo riconoscere e tremavano di terrore. Quando sorse l'aurora, andarono dal padre Celeo, annunciandogli quello che la dea delle ghirlande aveva comandato. Il potente Celeo chiamò allora in adunanza tutte le genti del suo popolo e ordinò la costruzione di un magnifico santuario e che fosse eretta un'ara sulla collina sopra Callicora, dedicati a Demetra dalle splendide chiome. Il popolo ascoltò Celeo e gli obbedì. Poi, quando ebbero concluso quella fatica, ciascuno tornò alla propria casa. Avevano eretto il nuovo tempio che sorse magnifico in onore a Demetra. La dea vi entrò e prese posto, lontana da tutti gli altri dei, perché non cessava in lei l'angoscia per la bella figlia che le era stata rapita. Quell'anno la terra che tutti nutre fu spaventosamente sterile e non rilasciò alcuna semenza per l'anno a venire, poiché per il dolore Demetra nascondeva ogni seme dentro di sé, senza lasciarlo germogliare. Invano i buoi trascinavano su e giù per i campi gli aratri ricurvi, i semi del candido orzo cadevano a vuoto nei solchi, senza dar frutto. La stirpe degli umani, già per sorte destinati alla morte, moriva di fame. E gli dei non potevano così ricevere in dono altre offerte e doni propiziatori. Allora, solo allora, Zeus prese atto di quanto avvenuto e cercò di rimediare, chiamando Iride, la signora dell'arcobaleno, la messaggera dalle ali dorate, affinché andasse a parlare con Demetra, la splendida. Iride obbedì al signore delle nuvole nere, a Zeus, figlio di Crono, e raggiunse la rocca di Eleusi, da dove si alzava il profumo degli incensi, e trovata nel sacrario, Demetra ancora avvolta nel velo del lutto, disse: «L'onnipotente Zeus ti chiama, Demetra. Vuole che ti presenti al cospetto delle schiere dei numi immortali. Vieni, non ignorare il suo ordine». Iride pregò Demetra di ascoltare Zeus, ma non riuscì a convincerla. Allora il re degli immortali mandò da lei tutti gli dei, e ognuno di loro, uno dopo l'altro, portavano grandi, magnifici doni e la supplicavano di accettarli, ma nessuno riuscì a piegare il suo cuore e la sua mente. La dea era tanto adirata e triste da spregiare ogni loro consiglio. La dea delle ghirlande e della vita della terra ripeteva che mai più sarebbe tornata ad annusare gli incensi dell'Olimpo, mai più la terra avrebbe ridato frutti se non avesse potuto rivedere con i suoi occhi la sua bella figlia adorata, che era stata rapita da Ade. Allora Zeus, il cupo dio dei tuoni, vide e capì il proprio sbaglio e decise di inviare nell'erebo, nel buio profondo e primordiale, nel regno delle ombre, il proprio figlio Hermes, l'uccisore di Argo, il gigante dai 100 occhi, affinché il messaggero dal bastone d'oro, coronato di serpenti, trovasse le parole per convincere Ade a riportare Persefone alla luce, traendola dalle tenebrose nebbie di cui era prigioniera, in modo che la madre, Demetra, potesse vederla con i suoi occhi e cessasse l'ira implacabile che aveva votato il mondo a una carestia senza fine. Hermes acconsentì, pronto a quella nuova missione, e partì dall'Olimpo per scendere subito in un baleno nelle profondità oscure degli inferi. Il messaggero trovò Ade nel suo palazzo, comodo sul suo trono, con vicino Persefone che non smetteva di invocare la madre Demetra, la quale da distante continuava a maledire tutti gli dei meditando vendetta. Avvicinatosi al trono, il messaggero dalla verga d'oro disse: Ade, signore dalle nere chiome che domini sovrano il regno dei morti, il padre Zeus, tuo fratello, ti ordina di liberare dal buio la lucente Persefone e di ricondurla presso i celesti, così che sua madre Demetra la veda con i propri occhi e condoni agli immortali l'aver scatenato la sua collera. L'ira inesorabile per la quale ha deciso di estinguere le stirpi degli umani, in modo che nessun dio o dea riceva mai più da loro offerte ed onori. Un'ira tremenda è in Demetra, non vuol più sedere tra gli dei e in disparte dimora in un nuovo tempio, odoroso di incensi, che si è fatta costruire sull'impervia fortezza di Eleusi. Così disse Hermes, messaggero di Zeus, e Ade, il re degli estinti, nascose la contrarietà in un sorriso e assecondò il comando di Zeus. Si rivolse a Persefone dicendole: Demetra è avvolta nei veli del lutto, Persefone, puoi tornare da lei, ma se rimani qui, dominerai tutto ciò che abita il profondo buio, riceverai onori da tutti gli altri dei, mai più qualcuno potrà offenderti. Saranno duramente puniti coloro che non placheranno la tua ira con offerte, coloro che non celebreranno con i doni dovuti Persefone, figlia di Demetra. La potente Demetra ora ha Giove dalla sua parte e se decidi altrimenti io nulla posso contro di lui. Ignoravo che neanche agli dei è dato offendere la madre terra. Da qui io chiedo perdono a te e alle tue schiere. Non so se varrà a salvare l'umanità dall'incubo in cui è precipitata, se puoi non odiarmi, conserva sereni il cuore e la mente. Così disse Ade. E Persefone, core, gioì all'idea di poter tornare dalla madre. Prima che partisse, Ade la pregò di accettare qualche chicco di melagrana, e questo parve a Persefone segno di pacificazione da parte del dio dei morti. La figlia di Demetra addentò il frutto e presto lo posò, impaziente di partire. Ne aveva ingoiato solo pochi chicchi, ignara di cosa significasse. Allora Ade sorrise. Ade, che tutto assoggetta, aggiogò i cavalli immortali al suo cocchio d'oro e Persefone vi salì, mentre Hermes al suo fianco prese in mano le briglie. Il carro d'oro uscì in volo dal palazzo e la giovane dalle belle chiome con Hermes lasciò il regno di Ade. Non andarono per mare, né attraverso i fiumi, le valli o le selle dei monti, ma sfrecciarono tagliando il cielo profondo al di sopra delle montagne. Hermes, con vicino la dea che infonde vita alle piante, gioiva. Il cocchio li portò dove Demetra, la dea dei papaveri, li attendeva, davanti al sacrario di Eleusi, odoroso di incensi. Vedendo la propria figlia, la dea si slanciò verso di lei con entusiasmo di menade che corre nei boschi. Persefone, incrociati gli occhi della madre, lasciò il carro e a sua volta di corsa si gettò al collo di sua madre, stringendosi a lei. Ma Demetra, mentre finalmente stringeva la figlia tra le braccia, percepì un inganno e, presa da tremore, sciolse l'abbraccio. Guardando la figlia negli occhi, la interrogò con queste parole: Figlia, mentre eri laggiù non avrai toccato cibo? Non nascondermelo, parla, dobbiamo sapere quello che ci aspetta. Se non lo hai fatto, tornata quassù, vivrai per sempre lontana dall'Ade, altrimenti, per Per un terzo dell'anno tornerai là sotto nel regno degli inferi, ad accogliere con il potere della rinascita i morti che discendono a te. Io senza di te in quel tempo non darò frutti alla terra, spopolerò i prati dei fiori, celando i semi che solo al tuo ritorno germoglieranno. Per i due terzi però resterai comunque con me. Quando tu tornerai dalle cupe nebbie dell'erebo, la terra si riaprirà in fiori odorosi di primavera, i semi germoglieranno per la gioia dei mortali. Ora dimmi ciò che temo. Ade, colui che ti ha rapito, ti ha offerto del cibo prima di lasciarti tornare? E alla madre rispose sincera Persefone, la stupenda figlia di Demetra. Sì, madre, certamente, ora ti racconterò tutto il vero che mi chiedi. Quando Hermes è venuto per ordine di Zeus a riscattarmi dall'erebo, affinché io tornassi da te e tu potessi di nuovo vedermi con i tuoi occhi, perdonando gli dèi e ponendo fine alla tua collera, ero stordita di felicità. È stato allora che Ade, nel chiedermi di perdonarlo, mi ha offerto un frutto di melagrana, e io ne ho accettati alcuni chicchi, appena un morso. Ho sbagliato, madre. Ade era così diverso mentre chiedeva perdono. Era lo stesso Ade quello che mi aveva gettato sul cocchio per rapirmi e quello che preparava il cocchio d'oro per lasciarmi partire. Demetra, la madre, non disse nulla, perché nessuna, né donna né dea, ha un rimedio sempre valido di fronte alla doppiezza dei figli di Zeus. Tacque la dea delle ghirlande e il suo silenzio era tremore di monti e valli. Non disse nulla perché i mari si innalzano alti sopra le coste a prescindere dai torti e dalle ragioni degli dèi e degli umani. E non volle offuscare con ciò che sapeva il futuro di Persefone. Tacque Demetra. Era lieta di non aver perduto per sempre la propria figlia. Ora, disse Persefone, ti dirò come Ade mi ha rapita, ti narrerò ogni cosa. Ero con le mie compagne nel mezzo di un prato stupendo. Con me c'erano Leucippe, Fenò, Elettra, Iante, Melite, Iache, Rodea, Calliro e Melobosi, Sorte, Ociroe dagli occhi gentili, Criseide, Ianira, Acaste, Admete, Rodope, Plutò, Calipso, Stige, Eurania, Galassaure, Pallade e Artemide. Giocavamo e io godevo del profumo e del colore dei fiori, mischiavo al croco le iridi, i giacinti, le corolle di rose, i gigli e il narciso che ho colto per ultimo. In quel momento la terra si è spalancata ed è apparso Ade, mi ha portata via sul suo carro mentre io gridavo senza che nessuno potesse soccorrermi. Questa è la verità, madre mia, seppur con angoscia te l'ho raccontata. Per tutto il giorno si confidarono, dandosi conforto e rincuorandosi, circondandosi di cure. Entrambe, madre e figlia, guarirono da ogni angoscia. L'una e l'altra ebbero sollievo e l'una all'altra donò gioia e la ricevette. Poi venne Ecate, la luna cinta da chiari veli, e stette con loro, benedicendo Persefone, Core, la fanciulla nata dalla splendida Demetra. Liberate la notte e il giorno, disse Ecate, e non abbiate più segreti né cose da tacere o confessare. Abbiate la trasparenza dell'acqua e la forza del fuoco. Non più inferi nel cuore della terra, il mondo corrisponda al vostro cuore e il vostro cuore al mondo. Nessun dio o umano vi possa più molestare. Custodite in voi il mistero del seme e la bellezza delle stagioni. Da allora Ecate è per sempre guida e compagna di Persefone. Fine.